3-12 minuti primi ci tengo a far sapere che questi 6-7-10 minuti che ballano mi vengono pagati lo stesso, quindi sto in una botte di ferro. Sono le 3 e comincio. Se me li pagano poi sarò io a far arrivare la percentuale al tipo dei Chimera. Vabbè, ma come va anche quel pezzo? Aspetta, sono... Ma voglio farlo anche, insomma, è un cinque. Vuoi dire, sono le 3 alla radio scenaria e... qualcos'altro. Sono le 3 e arriva Frigidaire. Sono le 3 che ti chiedi arrivo. Ma tu non hai mai ascoltato Frigidaire? Sono le 3 e comincia Frigidaire. Sono le 3 col DJ Ariel. Che bello è Frigidaire, Frigidaire, Frigidaire. 15 e 14 minuti primi, si apre la porta del frigorifero. Va bene, allora per tutti gli amici all'ascolto questo è il vostro momento, il momento in cui potete chiedere qualsiasi cosa. Frigidaire! Oh, Frigidaire! Amici ascoltatori, allegria! Salute a tutti! Subissateci di fax, inviateci lettere, letterine, mega messaggini, tutto ciò che vi capita per la testa. Mandate sulla spedizione, ci sono stato, ecco, molto fiero di rispondere. Al grido di Bonanza che anche quest'oggi ci rimpossessiamo del gigantesco mixer di Rock FM, compagnia del fottio di animali di plastica, ovvero la redazione di Frigidaire. Riccio Pasticcio presente. Nemo il pesce d'aprile presente. Era parecchio tempo che non lo sentivamo, ma esiste ancora il gabbiano. Mister Trombetta, immancabile Mister Trombetta, la mucca Camilla e via, ci siamo in forze per una nuova settimana in compagnia di Frigidaire. Devo iniziare la puntata subito cospargendomi il capo di cenere per questioni tecniche. L'appuntamento di venerdì di Frigidaire non è andato in onda, in realtà era stata una settimana nella quale Gran Scalpore aveva fatto il nostro disco da scongelare, ovvero le Zeppelin. Non essendo andata in onda la puntata di venerdì, non ho potuto programmare un ultimo brano. Poi non dite che non vi voglio bene. Non ditemi che faccio le cose così a casaccio. Riprendo oggi. Oggi Frigidaire inizia così. This is rock and roll, baby. We'll be right back. Che inizione, ragazzi. Moby Dick, tratto da Led Zeppelin 2, brano celebre per questa chiusura affidata alla fantasia di John Bonham, storico batterista dei Led Zeppelin. Che ci volete fare? È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Inizione di Frigidaire. Ovviamente, essendo lunedì, avremo un nuovo disco da scongelare, ma ne parleremo nella seconda ora. Ora velocemente vi ricordo le nostre coordinate: 338-6171-300, il nostro numero di SMS. Soprattutto Ariel, @ radiorockfm.com, la nostra casella di posta elettronica. Dopo l'inizio affidato ai Led Zeppelin, si passa al volo ai Muse, di Knights of Sidonia. Tutto bene, ragazzi? Avete la forza per affrontare questa nuova settimana? Non ce l'avete? Allora restate incollati alla frequenza. Un po' di energia qui da Rock FM la si regala sempre volentieri. E via! Streets of Sidonia News. Ti portano all'appuntamento dei santi del giorno, immancabile, come il cacio sui maccheroni. Che Frigidaire non spostiamo un dito senza tutti i santi del giorno in corso. Siamo degli abitudinari, non ci giudicate. Siete come noi. Rullo di tamburi, lunedì 22 di gennaio. Andremo a ricordare Sant'Anastasio e Sant'Anastasio di Asti, Sant'Antioco Sabaita, Beato Antonio della Chiesa, San Bernardo di Vienna, San Domenico di Sora, Santi Francesco Gilde Federico e Matteo Alfonso delle Cinaia, San Gaudenzio, Beato Giuseppe Nascimbeni, Beato Guglielmo Giuseppe Caminade, Beato Guglielmo Patterson, Beato Laszlo Battiani Stratman, Beata Laura Vicuna, Beata Maria Mancini, San Tolcese, San Valerio, hai capito? San Vincenzo di Saragozza e San Vincenzo Pallotti. E si riprende col rock and roll. Cover dei Limp Bizkit, Faith. Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Strong man, baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Baby, I know you're asking me to stay. Say, beep, beep, beep, to go away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you remind me of all the words you say. Showing you that door, rock. Oh, rientro affidato a Demi Lee e i suoi Evanescence per questa Lithium. Leggo da internet che Emily è pronta per sposarsi e ci aggiungerei anche in classico stile Frigidaire che me ne fotta moi, anche perché devo occuparmi, come è giusto che sia, del nostro CD della settimana. Congediamo, abbiamo congedato settimana scorsa da Cooper Temple Close e andiamo ad occuparci di un'altra formazione di giovani ragazzotti. Si chiamano Cold War Kids. Il brano con il quale abbiamo iniziato ad ascoltarli, il singolo ufficiale di questo lavoro, era We Used to Vacation, singolo che quindi eviteremo di programmarvi, proponendovi il resto di questo lavoro intitolato Robbers and Cowards. Inizierei quest'oggi con la traccia numero 3, ripeto, si chiamano Cold War Kids e il brano è Tell Me in the Morning. Il CD della settimana. Nuovi amichetti della settimana che ci apprestiamo ad affrontare, si chiamano Cold War Kids e il brano era intitolato Tell Me in the Morning nello specifico, la traccia numero 3 del nostro CD della settimana, Robbers and Cowards. Appuntamento con loro rinnovato a domani, nel mattino con Marco Garavelli e nel pomeriggio con noi di Frigider. Vi ho ricordato le nostre coordinate, tra pochissimo vado a vedere che cosa mi raccontate, anche se vi sento belli freddini quest'oggi, quindi ricordo le coordinate. Numero di SMS 338-6171-300. Mi sento stanchi oggi, weekend duro. Dopo vi racconto del mio di weekend. E casella di posta elettronica invece Ariel @ radiorockfm.com. Come ben sapete, dopo la novità del CD della settimana, Rock FM ci tiene a offrirvi un bel perlozzo dal passato. La miglior stazione radiofonica del mondo, Rock FM. E Rock FM quest'oggi Rock FM vi regala uno Scorpions dannata Dinamite Dynamite. Dinamite, quella che vi spariamo 24 ore su 24 dall'unica frequenza del buon rock and roll, Rock FM. Scorpions dannata per il perlozzo di quest'oggi. Torneremo ad ascoltare musica dannata, come è giusto che sia, nella programmazione dei nostri pomeriggi. Sicuramente lo faremo nella seconda ora con il disco da scongiurare, con il quale presumo un po' vi spiazzerò, perché ho scelto qualcosa di decisamente differente dall'album scelto la scorsa settimana, ovvero le Zeppelin 2, ma ne parleremo poi nel corso della seconda ora di quest'oggi. Dicevo, parto con i saluti a proposito di dinamite. Beh, oggi abbiamo iniziato, oltre che con la dinamite degli Scorpion, ancora prima abbiamo iniziato con Moby Dick delle Zeppelin, che era dinamite, e della qualcosa è contento il buon Fabio all'ascolto da Pozzuoli. Grande Ariele, mi fai arrapare quando inizi così. Caro Fabio, invece, siete voi ad arraparmi quando mi fate i complimenti. Vado a salutare invece anche il grandissimo Ciro da Livorno, che si complimenta per il pazzo show di venerdì sera. E allora io ne approfitto per ringraziare gli amici e le amiche che sono passati a trovarmi venerdì sera in quel di Montespertoli, sulla collina di Ortimino, dove dagli amici del Mulligans si è fatto un bello spettacolino Elettro 80, pubblico delle migliori occasioni. Come al solito, il mio pubblico migliore, venerdì sera sicuramente rappresente. Bacio tutti in fronte, uno ad uno. E già che ci sono, saluto invece anche i folli scatenati incontrati in quel del Baraonda sabato sera. Vado avanti, invece si picca un altro radioascoltatore quando dico oggi mi sembrate un po' freddini. Dice, beh, freddino direi proprio di no, visto che è da venerdì sera che ho 39 di febbre. Comunque anche io ho la mutua pagata, ormai siamo in pochi, no, io ho la mutua pagata, perdonami, ma non credo di avercela. Fortunato te, stai in una botte di ferro. Allora vediamo di raffreddarti con Blackstone Cherry. Questa è Hell and High Water. Frigider, non se tocca. Frigidaire. Qu'est-ce que me ne fotta, moi? Nuovo singolo di The Block Party, si intitola The Prayer. All'inizio devo confessare che non mi convinceva parecchio, come al solito con l'ascolto poi ci si affeziona sempre un po' ai singoloni, no? Stiamo già per terminare la prima ora di diretta di quest'oggi, prima ora di diretta che termineremo ovviamente con il passaggio preciso della nostra Rock Shock, novità in alta rotazione, ennesima anteprima come facciamo tutte le settimane. Anteprima quest'oggi targata Within Temptation con il nuovo singolo What Have You Done. Come al solito mi trovate all'SMS e alla mail già ampiamente ricordata. Nella seconda ora andrò a vedere che mi state a scrivere. Now O Venozzo ti piace la sigarettella virè, Friggitelli tu sente ogni giorno alle tre. Hai 30 anni e ti miaghi e uscire per giù di me. O stipendio tu mangi e guarda collare puro a pubblicità. Rock FM. L'inconfondibile tocco, l'inconfondibile timbro di Paul Stanley. Di nuovo parliamo di Live to Win, il suo nuovo lavoro da solista. In realtà la seconda ora di quest'oggi inizia con il nuovo singolo estratto, ovvero Lift. Benvenuti, bentornati, questo è Frigidaire, si roccheggia fino alle 17. Tra l'altro, essendo oggi lunedì, alla termine di Frigidaire, l'appuntamento che vi ricordo è con l'ottimo blues targato UE Fabione Treves, Blues Express. A proposito di blues, io ho qui una mail targata Nevio, firmata Keep on Blues, la mia grande passione. Allora, caro Nevio, mi raccomando, Frigidaire lo si ascolta tutta. E poi si attende l'appuntamento con Fabione, il buon Nevio all'ascolto, finalmente dall'ufficio. Uno di quei radioascoltatori che deve litigare in ufficio per sintonizzarsi su Rock FM. Mannaggia gli altri, non mannaggia voi. alla facciazza dei miei capi, vi ascolto in ufficio, come benvenuto mi hai regalato un bel pezzone degli Scorpions, adesso il problema è non pogare mentre faccio finta di lavorare, ti capisco caro Nevio, Nevio Towers, e effettivamente il riuscire a non pogare nel corso delle mansioni lavorative è difficile, però ti devi impegnare, se no ti cacciano. Saluto anche Red Viper, che mi gira i ringraziamenti di sua sorella per una strombazzata di settimana scorsa. Ovviamente sto parlando di questo tipo di strombazzate brutti maligni all'ascolto. E me ne commissione un'altra per un orale di fisiologia e biologia per domani. Red Viper, stai in una botte di ferro, come si dice qui da Frigidaire. Soprattutto quando Mister Trombetta vi augura il meglio, ecco, facciamo così. Sempre via SMS vado a salutare Leo, in trasferta, ci ascolta addirittura dalla Germania. Presumo, anzi sono certo, in streaming, grazie a RadioRockFM.com. Manda i saluti appunto da Monaco, nello specifico, continuate a spaccare con il fottuto rock and roll e così sarà, caro il mio Leo. Is it okay if I don't make it? Guarda, per me ragazzi è ok. Is it okay if I don't come around? Guarda, te l'ho detto Jet, è ok, fai quello che vuoi. That is fading and the sun has gone down. Volete cantare Bring It All Back? Cantatela. Bring it all back, bring it all back. Esatto. Bring it all back. Where's the day that never ended? Tell me when it's time to open up my eyes. Light the morning with the sun on the rise. Manetta per questa Bring It On Back. Saluto Paolo dalla nebbia di Marina di Ravenna. commenta: beh, ci sono anch'io per una bella strombazzata alla sorella del tizio. Oh, calmi ragazzi, ripeto, quando qui a Frigidaire si parla di strombazzate io conosco solo queste, ok? Basta far sempre i maliziosi alle 4:10 del pomeriggio, insomma, su. Quindi salutiamo la nebbia di Marina di Ravenna, tra l'altro anch'io, caro il mio Paolo, mi sono svegliato quest'oggi immerso totalmente nella nebbia, ma potrebbe anche non fregarvene di meno, giustamente, e quindi andrò a parlare di buona musica. Ufficialmente entrati nella seconda ora di Frigidaire, potrebbe essere il momento di parlarvi del nostro album da scongelare. Questo è il nome che diamo ad un disco importante, o che riteniamo importante per la storia del rock, e che vi facciamo ascoltare tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, quindi 5 tracce. E come al solito tentiamo di evitare i singoloni ufficiali, e ovviamente, dicevo, quest'oggi vi avrei spiazzato, perché si può pescare tra dozzine e dozzine di capolavori del rock internazionale. Anche nella scorsa stagione i gruppi italiani sono stati un po' bistrattati, non ne ho programmati tantissimo, e in questa nuova stagione, al secondo giro, quindi alla seconda settimana, già voglio proporvi qualcosa di italiano. Le occasioni, o meglio, devo confessarvi che a spingermi a questa mossa è stato anche un messaggio di un radioascoltatore arrivato ad ariel@radiorockfm.com, e l'amico commentava un 3x1 di settimana scorsa che era stato dedicato ai Marlene Kunz, e l'amico mi scriveva: bene, ottimo 3x1, però non avete inserito nessun brano di Catartica, il primo lavoro dei Marlene Kunz, lavoro al quale tra l'altro anch'io sono molto affezionato. Era il 1994, ovviamente tutto questo cappello introduttivo era per svelare che il lavoro che vi presento questa settimana è per l'appunto Catartica dei Marlene, dicevo il primo lavoro, e so per certo anche uno dei lavori ai quali molti fan dei Marlene poi rischiano di essere più affezionati rispetto alle nuove produzioni, ovviamente molto più concrete a livello sonoro, a livello di arrangiamento e quant'altro. Ricordiamo che Marlene negli ultimi anni hanno anche iniziato una ottima carriera al di fuori delle Alpi, pur cantando in italiano. Inutile ricordarvi i duetti addirittura con Skin degli Scancanesi. Nella Frigidaire quest'oggi, o meglio tutta questa settimana, per l'album da scongelare vi presenteremo Catartica, primo lavoro molto grezzo, molto sporco, ma spero di farvi cosa gradita. Sicuramente i fan dei Marlene lo farò, spero di farlo anche a chi magari non conosceva questo lavoro. Questo poi è lo spirito dei nostri CD della settimana. La traccia numero 2 di Catartica si intitolava Festa Mesta e iniziava esattamente così: complimenti per la festa. Il nostro disco da scongelare di questa settimana è Catartica dei Marlene Kunz. Complimenti a molle, eh? Ci stupisci quasi fosse reali, e invece sei vecchio e gommoso. Bacia la sposa, bacia, punto. diretta dal Cuneo. Festa Mesta. Traccia numero 2 di Catartica, Marlene. Mamma Marlene è la migliore. Appuntamento con loro rinnovato a domani. Parleremo ancora di Catartica. Ce ne sono di cose da raccontare di questo lavoro datato 1994 e che noi di Frigidaire riteniamo importante abbastanza da partecipare al nostro disco da scongelare. Prima o poi metteremo anche i Pantera, per forza. Glielo dobbiamo. Intanto quest'oggi ce li ascoltiamo con Walk. Classicone, eh? Anche si va di classisconi, ragazzi. 16 e 15 minuti primi, questo è Frigidaire. Dici a me? Pantera Walk. Così un po' di metallo violento dalle casse di Rock FM, fa sempre bene. Come Derio? Derio in forma più che mai in questi giorni. Bene, bene, contenti per lui. Allora andiamo a dare una salutata generale ai messaggi arrivati al 338-6171-300. Oggi Ariele con la grammatica ci siamo forti, eh? Vabbè, lunedì che ci volete fare? Si riprende un po' tutti quanti, no? Io con la grammatica di solito riprendo verso mercoledì, inizio a dire cose sensate, dal lunedì al mercoledì. Prendetemi un po' per come sono. Vado a salutare Isa, anch'io dovrei fare l'esame di citologia domani, ma chi ha studiato? Cara Isa, molla tutto. Ormai Mister Trombetta ha sentenziato, puoi fare quello che vuoi. È facile dire già passata la prima ora quando ci si è allegramente fumati i primi 12 minuti di trasmissione. Ragazzi, c'era l'intervista, mica fatta apposta, Lillo ci fa sapere che la febbre sta scendendo e ne siamo contenti. Anch'io mi sono svegliato in mezzo nella nebbia e poi sono andato al lavoro, mi sono trovato immerso a dell'altro, preferivo la nebbia. Un saluto dall'assolata Toscana, complimenti arrivano da Angelica per il venerdì sera dei Pay al Mulligans, grande Angelica, Angelica numero uno. Saluto anche Dottor Maeve che mi chiede se posso maledire con qualche bestia delle tue il tir che si è infilato nella strada minuscola che lo sta bloccando. Guarda Dottor Maeve, potrei provare con Santa Claus, questo è per il tir. Vediamo se gli porta male o no. Qui il reverendo Joy, basito alla notizia che Emily degli Evanescence stia per sposarsi, dice aveva detto che sposava me. Caro reverendo, queste sono cose che dovete vedervi tu e la tua amica Emily. Io non ci metto dito, non ci metto bocca, ok? L'ultimo saluto va a Ziggy, uno dei tanti numerosi orfani di Rock FM in terra toscana, amici che ormai non riescono più ad ascoltarci in radio, che commenta così: ragazzi, mi tocca sentire Ringo, tornate a Pistoia. Saluti anche a Ringo, ti sei guadagnato un radioascoltatore, Ringo, segna pure, grazie all'Ariele. Live and learn. Live and learn. I've been thinking about you, baby. By the light of dawn, and in my blues, day and night, I've been missing you. I've been thinking about you, baby. With me, Nazione e la Fondazione Umberto Veronesi presentano l'Enciclopedia della Salute. Un'opera chiara, pratica ed autorevole per una salute sempre più consapevole. Ogni lunedì con La Nazione ti aspetta l'Enciclopedia della Salute. Sapere aiuta a stare meglio. Da un tatuatore non professionista. Salve. Ai, oh, ai, ai. No, il troppo no, il troppo no. Se invece cerchi competenza e professionalità, Laserline Art Tattoo. L'igiene è il primo servizio che offriamo. Laserline Art Tattoo, professional body piercing, lo trovi a Firenze in Via di Novoli 42, il più grande centro di tatuaggi e body piercing della Toscana. 055 41 6318. Nuovo negozio Laserline 2, abbigliamento Lucky 13, Nightmare Before Christmas, Via di Novoli 85, Firenze. Dare inizio all'ultima mezz'ora del vostro programma pomeridiano preferito, ovvero Frigidaire, The Middle, in realtà verso la fine, però non è che possiamo mettere questa canzone sempre in mezzo solo perché si chiama The Middle. Battutone. come l'inverno, Love Like Winter, gli Fire Inside, AFI, meglio conosciuti così dai nuovi kids del rock and roll. Amici che ci accompagnano all'appuntamento con le celebri triplette di Frigidaire, nella nostra ultima mezz'ora come al solito il passaggio del 3x1. Siamo sempre ascoltando gruppi catalogati sotto la lettera M in rigorosissimo ordine alfabetico. Quest'oggi vi auguro un buon ascolto con i Marvelous 3. 3x1. I was checked in by 4, put the sign on the door, looked out the window on the 17th floor, talked to the city that knows me by name, and all the bad things that I do. I shed 5 bitter tears and 5 bitter beers, looked at my watch and said, where have the years gone? I'm wasting away. Think of you. I was up by 5, talking nothing but jive. Told the bartender he'd never take me alive. All of this because my favorite show was canceled last night on TV. So I called up Marie, she'd have sex for free. For $10 an hour, she'd listen to me. Talk about rock stars and my Marvelous 3, terminata con Freak of the Week, iniziata con Every Monday e in mezzo ci siamo gustati Get Over. Era il 3x1 di quest'oggi. Ancora qualche brano prima di concludere l'appuntamento di questo lunedì e cedere il testimone al buon Fabio Treves. Ora Borden Brothers. Everybody is easy, everybody is strong. Everybody would leave me every time that I go wrong. This song is a secret. The song is a lie. Don't you try to sing it along. You forget the words every time. We're stuck in the middle with the little that we made. Everybody gets even, everybody gets high, everybody gets lonely, watching TV at night. But the moon's a gravesite, and it pulls the tide. Everything you know well, come on outside. Spin it, we'll begin here, something great. strong. I'm not l'incubus di Dig a porre termine allo spazio a nostra disposizione per quest'oggi. Tra pochi istanti il pillolozzo del nostro buon Maurizio Faulisi, e poi tenetevi pronti un'ora di ottimo blues con il Puma di Lambrate, detto anche Uè Fabione Travers, dalle 17 alle 18 ogni lunedì, solo e unicamente qui sulla vostra Radio Rock preferita, nonché l'unica. Come al solito, l'Ariele, prima di congedarsi da voi, vi ricorda un po' di appuntamenti del weekend. Questo sabato è l'invito che vi faccio a passare a trovarmi nelle lande del Varesotto, al Nautilus di Cardano al Campo, il tempio del rock and roll. Questo sabato suono dal vivo con i miei Pain, versione punk rock, ospite d'eccezione il buon Holly dei The Fire, appuntamento da non mancare. Dunque, questo sabato al Nautilus. È tutto per Frigidaire, si chiude in bellezza con una Ziggy Stardust targata Bauhaus. Restate lì che tra poco c'è il Puma.